Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Considero questo voto un voto di speranza straordinario di un paese che ha tutte le condizioni per poter cambiare e per poter invitare l'Europa a cambiare. Il semestre europeo che inizierà il 1° luglio è un semestre nel quale noi abbiamo il compito di mostrare un'Italia che sia leader e non follower in Europa. E lo facciamo partendo da un'esperienza istituzionale, cioè non dall'antipolitico o dal populismo. Direi che la rottamazione può iniziare. Noi non molliamo di mezzo centimetro su nessuna riforma, perché se un messaggio è stato dato alla politica nazionale, il messaggio è: guai a voi se adesso non fate quello che avete promesso. Allora, onorevole Simona Bonafè, buongiorno, leader del PD in Europa con 288.000 preferenze, è la più votata, insomma, dai 50.000 abitanti di Scandicci ai 300-400 milioni di elettori rappresentati nel Parlamento europeo. Che effetto le fa? Buongiorno. Buongiorno a lei. Beh, sicuramente un onore per me essere stata la più votata, ma provo anche un grande senso di responsabilità, perché gli italiani hanno consegnato al PD con il voto di domenica un mandato pieno a proseguire sulla strada del cambiamento in Italia, ma anche in Europa, appunto. E quindi abbiamo l'impegno di non deludere questa speranza che abbiamo suscitato. Ecco, senta, onorevole Bonafè, lei prima in Europa, Dario Nardella, sindaco di Firenze, voi siete due anziani di ferro che hanno corso da soli, però, e hanno vinto. Cosa vuol dire? Beh, visto che ha citato Nardella, mi faccia intanto fare pubblicamente le congratulazioni al nuovo sindaco di Firenze, che si è affermato con un risultato straordinario già al primo turno e che avrà l'arduo compito di guidare la città dopo Renzi, che non è propriamente una sfida semplice. Ma vuol dire che Renzi c'ha un fiuto speciale nella scelta della nuova classe dirigente? Spesso Renzi viene visto come l'uomo solo al comando, non è così. Renzi è un leader vero, ma con lui c'è una nuova classe dirigente che sta emergendo, che ci ha messo la faccia in questa competizione elettorale, dimostrando di sapersi far valere e che sa camminare sulle proprie gambe con le proprie idee. Senta, intanto Grillo ha avuto una battuta d'arresto pesante, lo ha ammesso, è stato anche spiritoso. Sentiamolo un attimo. Abbiamo perso, non è una sconfitta, siamo andati oltre la sconfitta. Vinciamo noi, adesso vinciamo poi. Sì, vinciamo poi. Forse è ancora presto. Forse questa è l'Italia formata ancora da generazioni di pensionati che forse non hanno voglia di cambiare, di pensare un po' ai loro nipoti, ai loro figli. Preferiscono stare così. Sono dei numeri che non si aspettava nessuno. Però noi siamo lì, siamo il primo movimento in Italia, il secondo partito. Siamo lì e senza aver promesso niente a nessuno. Quindi non scoraggiatevi, faremo opposizione sempre di più. State tranquilli, vincono loro. Ma è meraviglioso lo stesso. Intanto io mi prendo un Malox. Non si sa mai. Casaleggio, c'è il Malox anche per te? Sia qua. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, onorevole Bonafè, potrebbe partire in Europa un rapporto nuovo con i 5 Stelle? Ma io mi auguro che con il 5 Stelle inizi un rapporto nuovo anche in Italia, perché si erano presentati come forza del cambiamento e hanno tirato il freno a mano su ogni nostra proposta che andava in quella direzione. Alla fine sono diventati più forza di conservazione dello status quo. Oggi il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di abbandonare la strategia dell'insulto e di diventare protagonista di una nuova stagione in Italia e in Europa. Ecco, ma intanto in Europa il mandato di Renzi, l'abbiamo sentito, è chiarissimo: rendere leader l'Italia in Europa. Da dove si comincia? Ma cominciamo andando a dire che l'Europa così com'è ha fallito e non ha migliorato la qualità della vita dei cittadini, e quindi oggi dobbiamo rilanciare il progetto dei padri fondatori con uno slogan, potrei dirle, meno fiscal compact e più social compact, cioè non solo integrazione economica ma anche, diciamo, visione politica. Ecco, Kohl diceva: voglio una Germania europea, non un'Europa germanica. E questa, diciamo, un altro slogan possibile dell'incontro fra la Merkel e l'Italia, perché dovrà cambiare linea la Merkel? Beh, certo, oggi l'Italia ha iniziato a mettere pesantemente mano alle riforme che il nostro paese aspetta da 20 anni, ma è soprattutto un'Italia rappresentata da un capo del governo, Renzi, che è anche il segretario del partito che ha preso più voti in Europa, quindi abbiamo tutte le carte in regola per far tornare il nostro paese ad essere protagonista del processo e per chiedere all'Europa e alla Merkel di cambiare. Senta, ma insomma, in Europa si trasformerà l'asse franco-tedesco in un asse italo-tedesco, secondo lei? Ma l'Europa oggi, proprio per quello che dicevo prima, l'Italia può ambire a guidare una nuova fase dell'Europa, che però deve essere una fase che riguarda l'Europa intera. Cioè, io credo che non possiamo più pensare a un'Europa come a un patto a due, ma dobbiamo creare le condizioni perché sia l'Europa tutta il nuovo spazio politico. Senta, ma avere la presidenza del semestre europeo, che in genere non conta assolutamente nulla, che possibilità invece offre oggi all'Italia di Renzi? Offre la possibilità di uscire una volta per tutte dalla politica dell'austerity e del rigore finanziario, che è quella che poi ha generato disaffezione verso l'Europa. Noi avremo un Europarlamento con un gruppo molto numeroso di euroscettici, e allora dobbiamo dire che dobbiamo uscire dalla politica dell'austerity, dobbiamo puntare su politiche espansive, come hanno fatto altri paesi che hanno ripreso a crescere. E il semestre è un'occasione proprio per rimettere al centro lo sviluppo, la crescita, gli investimenti e anche una lotta vera alla disoccupazione, che è la vera piaga dell'Europa. Ecco, onorevole Bonafè, lei personalmente in che cosa si impegnerà in Europa? Lo sa già? Io mi impegnerò fin da subito sul lavoro. In campagna elettorale, alle persone che ho incontrato, ho detto più volte che voglio dare un futuro ai loro figli. E questo per noi italiani significa anche tutelare le nostre eccellenze, il nostro marchio Made in Italy. E poi mi impegnerò perché l'Europa non sia vissuta come limite, ma assuma un volto umano, più vicino alla gente. Ecco, Mario Secchi, una domanda alla Bonafè. Buongiorno. Buongiorno. Allora, chi sarà il vostro candidato alla presidenza della Commissione? Ma guardi, noi abbiamo detto che in questa fase non ci interessano i nomi, in questa fase ci interessa mettere al centro il processo di cambiamento dell'Europa, ci interessa soprattutto che l'Europa esca da questa politica dell'austerity, che è quella che ha generato la crisi e che è quella che ha creato una grande disaffezione nei confronti dell'Europa. Pietrangelo? Buongiorno, sono Buttofuoco. Una domanda. Questo voto ha dato un'indicazione ben precisa nei termini della politica nazionale, cioè vi sta dicendo che dovete governare, dovete fare presto. Allora la mia domanda è questa, metterete mano anche a situazioni imbarazzanti per il Partito Democratico, per esempio discutere una volta per tutte i casi di Marino a Roma e Crocetta in Sicilia? Li toglierete? Ma Marino e Crocetta sono stati eletti dai cittadini di Roma e della Sicilia. Noi quello che interessa adesso è continuare il processo di riforme che abbiamo avviato e che è un processo che può far tornare l'Italia a crescere, che può far tornare l'Italia ad essere protagonista anche in Europa. Senza processo di riforme, e quando parlo di riforme parlo di riforme istituzionali, di riforme della giustizia, di riforme del lavoro, quelle che abbiamo avviato e quelle che i cittadini con il voto di domenica ci hanno chiesto di continuare a portare avanti, non ci hanno chiesto di cambiare Marino Crocetta. Ecco, bene, onorevole Bonafè, io la ringrazio, auguro un buon lavoro, la seguiremo nel suo lavoro in Europa per vedere se davvero i giovani italiani che cercano lavoro possono trovare nell'Europa una speranza. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Le organizzazioni criminali fatturano 170 miliardi di euro ogni anno, un tesoro che secondo la Guardia di Finanza ha superato il 10% del PIL italiano. Le segnalazioni finanziarie sospette inviate alla Banca d'Italia crescono da 21.066 nel 2009 a 67.047 nel 2012. Le mafie hanno a disposizione 65 miliardi di euro di liquidità e infatti gli usurai sono passati da un numero stimato di 25.000 a 40.000. 200.000 commercianti hanno chiuso i battenti per usura mentre loro, gli usurai, ingrassano con la crisi. E per concludere, dal 91 ad oggi 241 comuni sono stati sciolti per mafia. Ecco, proprio oggi dopo il voto in 4.095 comuni per le elezioni dei nuovi amministratori locali, vogliamo parlare di quelli che subiscono intimidazioni, atti di violenza e di quelli che hanno perso la vita. Edoardo Vivacqua, sindaco di Marano Marchesato, lei insieme ad altri due amministratori del suo comune vi siete trovati le autovetture bruciate sotto casa e pallottole chiuse in una busta. Ci spiega quando è capitato questo? Era il 7 di maggio alle 3 del mattino. In effetti una forte deflagrazione per quello che mi riguarda mi ha svegliato quando sono uscito, ho visto la macchina che era in fiamme. Praticamente ho cercato come meglio ho potuto per spegnere, diciamo, l'incendio, grazie anche a un amico che abita qua vicino a me. Ecco, diciamo, sindaco, tutti siete stati attaccati nella stessa notte, lei e gli assessori? Sì, siamo stati attaccati tutti nella stessa notte e tutti nello stesso momento, perché nel momento in cui ero fuori a spegnere il mio incendio mi telefona l'assessore Domenico Carbone, sì, e mi dice che è capitato anche lui. Ecco, lui, ma sì. Sono capitati degli altri fatti in questi 15 giorni, 20 giorni da quel momento o no? domenica subito dopo al comune là abbiamo trovato degli escrementi attaccati alla porta e qualche giorno che è un linguaggio molto chiaro, no? Molto chiaro, siccome era chiaro proprio l'atto individuatorio vero e proprio, certo, di trovare nella cassetta delle lettere praticamente le pallottole. Ma lei ha un'idea dell'origine del gesto? Il perché? Cosa state facendo che dà fastidio alla criminalità organizzata? Guardi, non abbiamo nessun elemento per poter stabilire tutto questo, perché le dico, è una cosa che noi non ci aspettavamo, in quanto non stiamo facendo nulla in questo momento, né tantomeno delle cose molto eclatanti, come dire qualche gara d'appalto, assolutamente no. Una piccola comunità come Marano, voglio dire. Cioè, quanti abitanti ha? 3.600 abitanti. È la prima volta che capita una cosa del genere a Marano? È la prima volta in assoluto, mai verificato un evento del genere, assolutamente no. Senta, sindaco, ma che risposta ha avuto dalla cittadinanza? Si è stretta, solidarizzato? Abbiamo avuto veramente, si è stretti intorno a noi in un modo veramente eclatante, ed è proprio questo che ci fa andare avanti e che non ci fa demordere. Si sono stretti intorno a questa amministrazione, giovane amministrazione, appena ne eletti, diciamo, un anno fa. E veramente, veramente stiamo avendo la solidarietà di tutta la comunità. Voi siete una lista civica, no? Sì, siamo una lista civica. Senta, ma l'assessore Domenico Carbone invece purtroppo cosa gli è capitato a seguito di questo incidente, di questa aggressione? Purtroppo la giovane moglie dell'assessore Carbone era in dolce attesa, per cui tutto questo ha fatto precipitare gli eventi. In effetti qualche tempo fa ha perso una bambina, era una bambina, quasi al sesto mese. Prego. Senta, ma lei ha avuto paura? Ma certamente sì, vedere insomma quelle scene, anche perché io le ripeto, noi siamo delle persone per bene, la maggior parte di noi, tutti lavoriamo. Lei cosa fa, sindaco? Io faccio il geometra nella vita, sono 30 anni che faccio il geometra, quindi ho sempre lavorato nella mia vita. Certo, quindi è un servizio proprio che presta alla comunità. Certo, certo. Non ha mai pensato a dimettersi? C'è stata la voglia di andare via, però poi abbiamo capito e non doveva essere così e così non sarà. Ecco, e cosa si aspetta lei dal lavoro della commissione? Io mi aspetto tantissimo, veramente non ho modo di ringraziare tutti, a parte insomma gli inquirenti che stanno facendo un ottimo lavoro. Ma ci sono già qualche indizio, qualche indicazione sugli autori dell'attentato? A noi dicono che il cerchio sta per chiudersi, però chiaramente non ci dicono niente, non scendono poi nei particolari. Nei dettagli. Ecco, un'ultima cosa, sindaco. L'istituzione, il presidente della regione, il governo, qualcuno l'ha chiamata, si è fatto sentire, a parte la senatrice Lo Moro? Abbiamo avuto la visita anche dell'onorevole Enzo Bruno Bossi, che fa parte della commissione antimafia. Abbiamo avuto il piacere di ospitare, perché ha voluto essere qui a Marano, l'onorevole Nicchi Ventola. Sindaco, gli amministratori locali denunciano secondo lei abbastanza le minacce che ricevono oppure no? Questo sinceramente non glielo so dire. A me farebbe piacere che denunciassero un pochino, certo, un pochino in più. C'è un po' di reticenza secondo lei? Sì, vabbè, penso la paura. C'è un po' di paura. E forse qualche volta anche un po' di complicità. Mi auguro di no, che non sia così, però voglio dire, la paura c'è. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Bruno D'Alonso da Bergamo ci scrive dicendo che non rispondiamo, per lui firma le sue SMS, però poi non si capisce che cosa ci vuole dire e che cosa ci vuol chiedere. Se sarà preciso risponderemo. Ecco, proprio la scorsa settimana è stata presentata alla stampa la commissione d'inchiesta sulle intimidazioni a tutti gli amministratori locali. Sentiamo questa rievocazione di Emanuele Maccaluso. Il giorno del lunedì di Pasqua lo passò con me a casa mia. Venne, portò il formaggio siciliano, veniva da Palermo. E io ricordo che abbiamo finito di mangiare, abbiamo fatto una passeggiata sul Lungotevere. Mi disse: devi dire a Berlinguer, Luis, dice ai compagni, che così come si stanno sviluppando le uccisioni della mafia, è un piano, e dentro questo piano ci siamo noi. L'analisi era il rapporto tra la mafia e la politica, cioè la mafia è una criminalità particolare perché ha un rapporto con le istituzioni, ha un rapporto con la, con l'amministrazione e ha un rapporto con la politica. Ecco, era Emanuele Macaluso che ci ha raccontato le paure di Pio La Torre, deputato ucciso il 30 aprile dell'82. Senatrice Doris Lo Moro, magistrato, le cosche hanno ucciso suo padre e suo fratello. Adesso è presidente della commissione d'inchiesta sulle intimidazioni ai sindaci e a tutti gli amministratori locali. Senatrice, ha sentito il racconto di Emanuele Macaluso e le intimidazioni subite da Pio La Torre? Comincia sempre così? Guardi, la cosa più assurda è che sono proprio i destinatari delle minacce a rendersi conto del pericolo, invece nel silenzio assoluto delle istituzioni e di tutto il resto. E quello che ho sentito raccontare è molto toccante, però dobbiamo anche capire che non possiamo continuare ad emozionarci sulla morte degli altri. Infatti, cercare di evitare e di prevenirla. La mia commissione, nasce con questo obiettivo. Appunto, adesso ne parliamo. Ecco, ma voi indagherete anche sui casi di dimissione di amministratori locali? Sicuramente, perché ci sono due modi di uscire di scena, quello di uscire morti ammazzati, e ce ne sono anche troppi sindaci e amministratori locali che sono stati uccisi, un numero spropositato che sta lievitando di giorno in giorno. Noi abbiamo dato un numero, già sono 47, ma purtroppo è un numero destinato a crescere. E poi c'è un altro modo di uscire di scena, quello delle connivenze. E poi un terzo modo, quello sbagliato, quello di restare in scena e di uscire poi di scena con lo scioglimento per mafia, cioè ci sono anche gli amministratori collusi, non dimentichiamolo. Appunto, per questo chiedevo se dietro le dimissioni spesso ci sono connivenze. Guardi, il fenomeno è molto variegato. Nel dare un giudizio sui singoli casi naturale. Si riesce ricostruendo, rientrando nel merito. Se ci fermassimo ai numeri non riusciremmo a dare una valutazione corretta del fenomeno. Ma... perché in molti casi sono leggibili, il caso di Vassallo, il caso di Lara Prati, lo stesso caso di Musi, che è, che è stato l'ultimo in ordine temporale a morire in questa maniera, consigliere comunale di Torino. Ma in altri casi invece la situazione è molto ecco, più senatrice, complicata. Senatrice, c'è paura a denunciare? Ma io credo che ci siano molti silenzi, sì. Che molto spesso non si denuncia perché si fa affari con le cosche, perché si fanno gli interessi delle cosche, perché li si rappresenta, e purtroppo le cosche sono molto interessate non solo alla politica, sono molto interessate alla politica. Certo, come diceva Macaluso. Ma sono molto interessate al territorio, il concetto al controllo il del territorio. Sul territorio, il certo. Controllo del territorio. Che passa attraverso la politica e le amministrazioni, ma che può anche ha tante forme, ma il capire che un mafioso, un 'ndranghetista ha bisogno di dimostrare di esserci, e anche che l'intimidazione è anche rivendicare la sua presenza, certo. Il controllo sul territorio è molto importante. Senatrice, voi avete costruito un dossier che parte dall'omicidio di Gaetano Longo, sindaco di Capaci. Perché si parte di lì, in due parole? No, siamo partiti da 40 anni, perché avevamo bisogno di una data di riferimento e siamo partiti da 40 anni, e in questo lungo elenco interminabile abbiamo mantenuto, sia pure evidenziandolo, il dato di Pio La Torre, perché Pio La Torre non era un amministratore locale, no. Era un deputato, certo. Però è stato un caso forse quello molto legato alla sua attività politica di segretario regionale del partito, certo. alla sua attività sul territorio, quindi ha delle caratteristiche che sia pure con una dimensiatura ci hanno consentito di dire c'è anche Pio La Torre. Senatrice, ma con quali obiettivi lavorate in questa commissione? Un primo obiettivo che credo che sia facile da raggiungere a questo punto, visto i dati trovati, è quello di svegliare le istituzioni e di fare naturale. Capire tutti. Perché non è possibile anche lasciare da soli gli amministratori, non è solo un modo di fare sentire la solitudine come è stato per i magistrati, per i giornalisti coraggiosi, neanche un modo di consegnarli all'Ndrangheta. Ma quali strumenti operate, in due parole? Gli strumenti sono quelli dei poteri d'inchiesta, poteri dell'autorità giudiziaria. Il punto è che a un certo punto dovremo trarre delle conclusioni, e le conclusioni ovviamente anche in termini legislativi, le faccio un esempio, dovranno essere tratte. Le faccio un esempio, finché che mi riguarda anche da donna, finché si è parlato di molestie, le molestie finché sono rimaste tali, tante telefonate, 10 certo. telefonate in una notte, nessuno poteva arginare questo fenomeno. Quando si è fatto il salto dalle molestie allo stalking non è stato facile, ma oggi è possibile un argine maggiore. Ebbene, io credo che sugli attentati agli amministratori dove succedere una cosa simile, cioè ecco. dovremmo trovare il punto delicato, il perché un incendio a una macchina di un sindaco non può essere trattato come un fatto numerico, statistico, come avviene ora. Senatrice Lomoro, abbiamo parlato con il sindaco di Marano Marchesato, ma come si spiega che, per esempio, in quel caso né il presidente della Regione Calabria né le istituzioni dello Stato hanno manifestato nessun sostegno? Guardi, si spiega, innanzitutto si spiega con un fatto, che si tratta di una lista civica, di un sindaco, di una persona. Non è di nessuno, non è di nessun partito. Nessuno ha rivendicato, e questo è stato veramente una cosa pazzesca, squallida. Squallida, sì. Ecco, lei è... ognuno mette il cappellino sul suo, si spiega sul fatto che non si vogliono scontentare nemmeno gli equilibri territoriali, perché c'erano le elezioni, ognuno pensava al voto da recuperare anziché alle cose giuste da fare. Ecco. Siamo in chiusura, senatrice, lei è stata sindaco alla Mezza Termine, un contesto difficile, ha avuto paura? Io ho fatto prima il magistrato sì, e poi ho avuto lo sono so. Stata vittima sì. di vicende che di una crudeltà inenarrabile. L'abbiamo accennato, la paura sì. fa parte della mia vita, ma solo affrontarla con il coraggio necessario. Sento un'ultimissima cosa, avete attivato un indirizzo mail per denunciare. Me lo dà sì. che lo trasmettiamo certo. ai nostri ascoltatori? La ringrazio. SOS Intimidazioni @senato.it 800 24 0024 il numero verde 349 238 6666 una battuta Mario che riguarda ancora l'Europa la Merkel ci scrive Daniele la Merkel non ha nessun interesse a cambiare cosa ne pensate? Tu cosa ne pensi? Tra poco nelle bolle diremo qualcosa di più profondo. Va bene, aspettiamo. Io dico solo una battuta per dare una risposta puntuale. La Merkel ha interesse a cambiare qualcosa. Anch'io penso. Sì. Tu, Pietrangelo? Sì, cambierà qualcosa anche perché dall'altro lato, dove l'Europa esiste davvero e non è certamente quella dell'Unione Europea, la Russia reclama una posizione strategica sì. dove solo la Merkel potrà dare delle risposte. Interlocuzione con la Merkel, fra la Merkel e Putin. Mix 24 Cercando di te in un vecchio caffè ho visto uno specchio e dentro ho visto il mare e dentro al mare una piccola barca per me per farmi arrivare a un altro caffè. Con dentro uno oggi Pietrangelo chi ti ha fatto venire in mente questa canzone? Oggi è poco prima dell'alba ero all'altezza di Formi e dal finestrino del treno sulla spiaggia ho visto una scena che è durata non un istante ma proprio un tempo infinito perché sulla sabbia c'era un pianoforte da concerto quelli a coda, la coda alzata il pianista suonava e dalla bocca aperta dello strumento uscivano fuori le note che s'acchiappavano con le ali, anzi facevano ali, diventavano uccelli, volavano, hanno riempito il cielo, hanno portato la luce e hanno risolto il rebus. Come siamo malinconici, mamma mia. E certo, tu te lo fai il viaggio da Catania a Roma il treno. Ma poi non deve essere facile, non deve essere facile. Per essere puntuali qui bisogna prendere il treno. Così. Senti Mario, e oggi sì. nella nostra bolle, nostre pentole, cosa bolle? Le nostre bolle, le pentole saltano e anche i coperchi. Sentiamo un po'. Ah, Allora, è sempre un punto di Germania, diciamo. Facciamo una piccola considerazione iniziale. Noi ieri non c'eravamo, abbiamo lasciato spazio ai corridoi, alle dirette che facevano le dirette sulle elezioni. Però insomma, piazze piene non è vuote, l'avevamo detto. E quindi assolutamente. La vecchia frase pronunciata da Pietro Nenni nel 48 è ancora buona. Quindi è interessante, no? Come in fondo le cose nella storia ritornano. Ora che succede? Sul piano interno io direi lasciamo stare, nel senso che la vera partita che si gioca Renzi è molto grande in realtà in Europa, e la faccenda qui è un po' diversa. Certo. Ha fatto bene l'ascoltatore a porre quella domanda: che cosa succede con la Germania e con Angela Merkel? Noi avevamo già preparato la nostra puntata senza averne prima sentore di questo, però insomma ci sono dei posti su cui bisogna decidere, e i posti e i nomi, ecco perché io ho fatto alla Bonafè quella domanda, sono le cose, poi sono importanti, sono i programmi. Si deve decidere sul Presidente del Parlamento, sul Presidente del Consiglio Europeo, sul Presidente della Commissione UE e sul rappresentante della politica estera. Merkel ha appoggiato subito e senza dubbi la candidatura di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione. Dicono, ce la farà? Questo già questo è un po' più controverso, nel senso che tutti dicono difficilmente cederà, visto che il PPE comunque è in testa come numero di seggi. È vero, per carità, ne ha 213 contro i 190 del gruppo del Partito Socialista Europeo, però è anche vero che hanno perso voti e devono trovare un accordo. Nelle pieghe di questa trattativa si è saputo che David Cameron non vorrebbe Juncker alla presidenza della Commissione. Però David Cameron è molto indebolito, è molto indebolito, quindi la sua richiesta è difficilmente accoglibile, potrà essere accolta. Ciò che è certo è che il PD può puntare comunque. Infatti. Intanto è molto influente nel processo perché il suo gruppo è quello più numeroso dentro il PSE. Conterà molto. Che cosa può fare? Si dice punta a un incarico prestigioso nella Commissione. C'è una pedina di cui bisogna tener conto, che è il fatto che l'Italia ha Mario Draghi alla BCE. Io aggiungo, Draghi non è di nessuno in realtà, perché la sua autorevolezza è talmente grande e alta che non dovrebbe essere incasellato in una questione di bandiere di italiana nazioni. Sì. Oggi a Bruxelles c'è un vertice del PSE e un consiglio informale europeo, comincia la rumba. Chiamiamola rumba. Questa non mi sembra una rumba. Vabbè. Oggi con la musica. Regia sono confusi. Oggi con la musica abbiamo fatto così. Vabbè, andiamo avanti. Poi c'era buttafuoco e faceva cue. Com'è che stavi facendo? No, non è una rumba. Noi che profondiamo Paolo Conte, sappiamo che c'è sempre un ritmo. C'è un rumore del mortaio, secondo me, che sta venendo fuori. Questo è lui. Questo è un mortaio. C'è poco da ridere. Allora, c'è un mortaio che speriamo non si senta più in Egitto, perché oggi Abdel Fattah al-Sisi, il generale, verrà proclamato presidente dell'Egitto. Nel suo curriculum, il curriculum è una garanzia, esperto di tecniche di artiglieria e impiego tattico del mortaio, non a caso ce l'ho messo. Purtroppo invece il mortaio si sente in Ucraina, a est. A Kiev hanno eletto quello che ironicamente qualcuno chiama il cioccolataio, cioè Pietro Poroshenko. È un presidente un po' zelig, parliamoci chiaro, ministro con la Timoshenko, poi anche con Yanukovych, ora sta con se stesso e con gli americani. Mentre lui festeggiava, ahimè, e sono in corso scontri e bombardamenti durissimi nelle zone filorusse, forse adesso trovano un modo per parlare. Nei giorni scorsi è morto un fotografo italiano di 30 anni, Andy Rocchetti, un amico nostro, da Piacenza, che conoscevamo. Ha fatto notizia, e questo lo devo dire, ha fatto notizia per qualche ora tra i cosiddetti giornaloni. Poi, siccome forse non era, diciamo così, non si sa chi gli ha sparato, non si sa se gli hanno sparato i russi, se gli hanno sparato quelli di Kiev, non si sa, e quindi è stato dimenticato. E allora giusto un po' di silenzio, dai. Sara, la quota rosa oggi che cosa ci racconta? Cambiamo argomento. Oggi volevo chiedervi, ma vi ricordate i 29 appuntamenti galanti con il fisco dei prossimi due mesi? Sì o no? Sì, e come no, siamo tutti qui. No, Pietrangelo, tanto lui non ci pensa al fisco, ci pensa qualcun altro al posto suo, me l'ha detto, lui queste cose non le fa. Cioè non paghi? No, c'è un'altra persona. Visti i tempi che corrono, io mi sono informata e mi sono messa a leggere L'esperto risponde del Sole. E ho trovato una storia. Un genitore fa vivere gratis suo figlio in un appartamento di famiglia, ma per fortuna in quel comune il genitore non deve pagare l'ICI. Era il 2009, Mario, se no subito mi dici qualcosa. Però il genitore trova una lettera in cui gli chiedono di pagare l'ICI. Allora il genitore proprietario, ormai vittima di un riflesso incondizionato, paga subito l'ICI. Ma solo dopo scopre che per una volta una tassa, almeno una, poteva non pagarla. Allora, dopo un breve ma intenso momento di felicità, il genitore proprietario scopre che sì, certamente può chiedere il rimborso, ma il comune, no, non è obbligato a restituire l'ICI che ha versato ingiustamente. Beh, ma non... sarà una candy camera. Ma non male questa storia. Salamino. Salamini da dopo elezioni. Allora, Fitto vince il duello con Toti. Il RAS delle Puglie batte il prediletto di Silvio Berlusconi, nonché ariete del cerchio magico. E inizia dunque l'ora di Fitto. Lì Fitto, la questione... è proprio fitta perché ne è venuta fuori una polemica feroce sotto traccia che è raccontata un pochino non ai giornali ma un grande ritorno. Chi? Balzac, che si firma con lo pseudonimo di Carmelo Lopapa sulla Repubblica, riferisce di un dramma in corso che vede indicate come responsabili della debacle due donne, cioè non è possibile. Maria Rosaria Rossi e Francesca Pascale, ovvero sia le padroni, le padroncine di Dudù Nostro. Dudù Nostro. Ma siccome il duello che a noi interessa è quello tra Toti, ariete del cerchio magico, e Fitto, che ormai avanza la sua opa su quel che resta di Forza Italia, a lui dedichiamo un meraviglioso Albano in coppia con Carapezza. I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia. Beh, è Pasquale da Bari, infatti. Pasquale da Bari ci scrive: ragazzi, per la cronaca, quella è veramente una rumba cubana che si balla per venerare vari dei. Capito? Voi musicologi. Chi è questo Pasquale? È Pasquale da Bari. Grazie Pasquale. Ci ha insegnato una cosa. Intanto, allora chiediamo scusa alla regia, naturalmente. Sta per partire la 16ª tappa del Giro d'Italia. Oggi la nostra seconda ora, curata da Marina Milone, è dedicata proprio alla storia del Giro. Ed io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sui monti e sul piano, e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi... Erano Coppi e Bartali nel famosissimo sketch andato in onda sul musichiere di Mario Riva nella Rai negli anni 59. Marina Milone, appunto, dicevo, ci racconta la storia di una delle più importanti manifestazioni sportive italiane nella seconda ora. Mario, ancora una bolla. Sì, senti qua. Allora, Jesus Christ Superstar, perché? Perché c'è un interessante quadretto tra Benjamin Netanyahu e Papa Francesco nell'ultimo viaggio del Papa. Il premier israeliano dice al Papa: Gesù era qui in questa terra, parlava ebreo. Aramaico, risponde il Papa. Parlava aramaico, ma conosceva l'ebreo, ribatte Netanyahu. Insomma, secondo gli storici, la lingua nativa di Gesù era l'aramaico, ma conosceva anche l'ebreo, perché 2000 anni fa era la lingua parlata dalle classi più basse, cioè quelle che erano oggetto della sua predicazione. Beh, interessante. Bella questa diatriba, no? E intanto il canzoniere. Vai Pietrangelo. Come sono contento di essere partito, mio ottimo amico, che cos'è mai il cuore dell'uomo? Abbandonare te che amo tanto, di cui ero l'inseparabile, ed essere contento. Lo so che mi perdonerai. Non pareva che il destino avesse scelto apposta tutti i miei altri legami per angosciare un cuore come il mio? Povera Leonora. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666. Se volete indovinare, telefonateci o scriveteci. Mix 24. Oggi mi sa che i nostri due amici sono un po' tristi. Sentiamoli un po'. Aiace Dudu. Pronto, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, Dudu prima è stato chiamato in causa. Sì. Comunque, Dudu è in linea. Mario, vuoi fare la domanda? Ciao, Dudu. Per Bacco la faccio subito. Ma si sta già parlando della successione in casa di Papi, sì o no? La successione di chi? Mia o quella di Papi? No, quella di Papi. Allora, dice Dudu che sicuramente Marina è pronta. Mm. È pronta anche Francesca. Mm. È pronta Maria Rosaria. Mm. Ed è pronto anche Toti. Mm. L'abbiamo messo a bollire e tra un po' ce lo mangeremo. Grazie Dudu. Dudu ha detto sostanzialmente che è triste, non vuole parlare. Non vuole parlare, tristissimo. Chissà com'è triste Aiace, perché non credo che il suo padrone incontrerà la buona fe in Europa. Parliamo di cose serie, dice. Ah, non è l'Europa l'obiettivo? L'obiettivo è un colle. Ah, aia. E ne approfitto per dire al signor Aldo Cazzullo di non perdere tempo con interviste a leader della sinistra ben rottamati e di riconoscere, e lo riconosca innanzitutto lei Minoli, che fa sempre le domande giuste. Ancora. Dice che se non se dici lo riconosco non prosegue. Dillo, lo riconosco, se no non prosegue. Dillo, e se no non prosegue. Dai, lo faccio io. Fallo, io non ce la faccio. Lo riconosco. Bisogna dare atto che l'unico ad avere la palla di vetro è stato D'Alema, perché il 23 maggio, mentre tutti davano per scontato il sorpasso del Movimento 5 Stelle, ostentava una sicumera invidiabile. Vincerà il PD. E ha detto, e lo ricorda il Fatto Quotidiano di oggi, che furono fatte circolare proiezioni sballate e falsate per far balzare verso l'alto lo spread, così chi le ha diffuse ha potuto comprare titoli sul mercato incassando un maggiore rendimento. Lo disse D'Alema e Mario Sechi sta dicendo lo deve confermare. Ah, Mario Sechi. Guarda, io confermo, va bene. Vabbè, poi di fronte allora, a uno che abbaia così che faccio? Intanto ci sono telefonate. Sì, Giuseppe da Roma. Giuseppe da Roma, Giuseppe? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dica. Bene, lei sta bene? Sta bene, ho conosciuto il libro che è uno dei miei libri di culto ed è I dolori del giovane Berto. Fantastico. Ma Giuseppe, lei dov'è in questo momento? Io in questo momento sono a casa, sto bevendo il caffè, mi sono svegliato con voi alle 9 perché mi sveglio sempre con voi. Ah, che bello, grazie. Mi alzo intorno ai 10:15. Ma che mestiere fa? Che bel mestiere, che fa? Guardi, in questo momento mi occupo di cicloattivismo, faccio piani per la mobilità alternativa a Roma. Vorremmo che Roma diventasse una città bike friendly, amica delle biciclette. Ah, bellissimo. Perché togliete Marino, però, questa è una fissa. Ma di... no, dico, la bicicletta però senza Marino, giusto? Vabbè. Vabbè, non facciamolo compromettere troppo, intanto continui col giovane Werther. Grazie, ha vinto la, il libro di chi? Come? I dolori del giovane Werther. No, ma chi ha vinto? Giuseppe da Roma, ha vinto un Feltrinelli. Ah, Feltrinelli, ecco, non mi ricordavo chi era il nostro sponsor. Professore, professore. Buongiorno. Buongiorno, lei lo sapeva? Sì, sì, sì. Naturalmente. Però non se l'è fregato stavolta. No, niente. È arrivato prima Giuseppe perché va in bicicletta, quindi è arrivato prima. Senta, TG3 si digitalizza, che significa? Significa che è cambiata. Facciamo un passo avanti? Facciamo un passo avanti, magari ce lo dice anche uno che di canone se ne intende. Provate a sentire, eh? Vengo e rimango lì, posto dopo il TG. Che meraviglia, che meraviglia questo gigante di Arbore che salutiamo, lui grande maestro di radio. Anche perché questa cosa che si fa qui con i cani assomiglia un po' alle cose che faceva Arbore. Sì, magari. Siete gli eredi. Bisogna dire che ci sono le ragazze coccodè. Vabbè. Noi abbiamo la quota rosa che insomma abbiamo fatto un passo avanti, diciamo. Parliamo una cosa seria. Il TG3 ha cambiato la tecnologia e cambiando la tecnologia ha cambiato lo spazio, perché quando parliamo di telegiornali in Italia siamo sempre molto attenti ai contenuti, al minutaggio, quanto tempo è dedicato all'opposizione, quanto alla maggioranza, quanto al governo, chi appare di più. Insomma, forma e contenuto, vuole dirci. Si parla poco della forma, e la forma del telegiornale, Arbore lo sapeva benissimo, il formato del telegiornale invece è fondamentale. Ora il TG3 ha cambiato il suo formato. E le piace questo nuovo formato? Mi piace lo spazio, il palcoscenico, perché è molto avvolgente. Sì. I colori, il movimento della macchina da presa. Bisognerebbe fare uno sforzo in più per gli attori adesso su questo palcoscenico. Un telegiornale ha un attore fondamentale che è il conduttore. Naturalmente. Ora, la conduttrice, che è anche direttore del TG3, dovrebbe forse prendere la situazione in mano in maniera più forte, visto che ormai insomma i TG sono anche molto personalizzati. Se non certo, c'è un in tutto il mondo è così, in tutto il mondo è così. E poi insomma bisogna... adesso vabbè, il canone era nella scenografia del TG3, questo vuole dirci, Adesso bisognerebbe rafforzare un po', ieri comunque c'erano pochi collegamenti perché c'erano le elezioni. Vedremo se migliora questo canone nel TG3. Ecco, senta, e per stasera che consigli dà a chi vuole cercare il canone? La 7, perché comincia In Treatment, cioè questa fiction, no? Tutta psicanalitica, in cui c'è uno psicanalista che ospita i suoi clienti e da lì nascono delle storie. È già andata in onda su Sky Cinema, va in onda sulla 7 in maniera completamente diversa. Cosa è cambiato? È cambiato il formato, perché mentre su Sky durava 30 minuti, era un preserale, qui è tutta una prima serata, dedicata a questo racconto, che è un format israeliano che ha avuto molto successo in tutto il mondo. Questa è la versione italiana, Castellitto e un nugolo di grandi attori e attrici. Mi incuriosisce molto vedere il formato gigante, questo di tutta la prima serata. Va bene, vale la pena di vederlo assolutamente. Grazie professore, lo ripeto nella seconda ora, la storia del Giro d'Italia scritta da Paolo Festuccia e curata da Marina Milone.